Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko alla polistrumentista, cantautrice e performer toscana Emma Nolde, che si esibirà insieme a Generic Animal in esclusiva per il circuito Biglia il 7 novembre al Locomotive Club di Bologna. Ciao Emma, benvenuta a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti. La data del 7 sarà l'ultima di un mini tour che inizierà il 4 novembre e ti vedrà protagonista insieme a Generic Animal per 4 date: il Circolo Kessel di Cavriago, il Bronson Club di Ravenna, l'Off di Modena e infine appunto il Locomotive Club di Bologna. Innanzitutto volevo iniziare chiedendoti un po' le sensazioni e le aspettative rispetto a queste 4 date. Allora, le sensazioni sono tutte positive. Abbiamo finito di provare ieri sera e siamo riusciti a mettere in piedi, secondo me, un live veramente divertente da vedere in 2 giorni di base, perché abbiamo fatto le prove a Lecco insieme e abbiamo unito, diciamo, sarà un live in cui ci sarà il 50% dei miei pezzi e il 50% dei pezzi più generic, io suonerò per lui e lui suonerà per me, quindi è un live divertente dove ci scambiamo gli strumenti, dove saliamo e scendiamo dal palco tra un pezzo e l'altro, insomma è molto divertente da vedere e speriamo sia anche emozionante, secondo noi lo è e niente, questo, quindi c'è da aspettarsi caos positivo, ecco. Parlando anche di questo duo, comunque dell'esibizione con Generic Animal, ti chiedo innanzitutto come vi siete conosciuti e come sta andando questa collaborazione, perché la scelta di Generic Animal anche poi rispetto al singolo che avete pubblicato insieme. Allora, ci siamo conosciuti un paio d'anni fa a Firenze, in quello che fu l'ultimo live di Generic prima del lockdown, e ci pescammo a Firenze, poi insomma qualche tempo dopo io insomma ascoltai quello che faceva e mi piaceva un sacco, avevo in mente di provare a mandare qualche idea e poi è uscita fuori questa canzone. Volevo parlare del luogo delle mille cose che ho perso, perché sono una persona molto distratta e quando ho cominciato a usare parole molto concrete come chiavi, ombrello, mi è venuto subito in mente Luca, perché è un cantautore che scrive usando parole molto materiali e quotidiane, inserite in contesti, diciamo, diversi rispetto al quotidiano. Quindi mi è venuto in mente, gli ho mandato strofa e ritornello e giro di piano, ecco. E da lì abbiamo iniziato lui ha scritto la sua strofa, abbiamo fatto il finale insieme, l'abbiamo arrangiato, eccetera. Questo singolo che è uscito il 23 novembre, ripetiamo il titolo, Un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo, e a proposito del titolo ti chiedo innanzitutto qual è il significato e di che cosa parla questa canzone. Allora, il titolo è molto lungo e a me è sempre, cioè quando Luca me l'ha proposto, Luca Generic Animal me l'ha proposto, mi ha convinto da subito perché mi sa molto di titolo di libro di narrativa e parla appunto delle mille cose che ho perso e del luogo dove poi, come dire, finiscono le cose che perdiamo. In questo caso io avevo da poco perso i rapporti con una persona a me molto vicina e a me molto amica, quindi quando è successo volevo immaginarmelo dentro a questo posto insieme a tutte le altre cose che perdiamo di solito, e quindi la canzone parla di questo. Questo singolo e anche queste date poi di questo tour con Generic Animal saranno l'inizio di collaborazioni per il futuro? Avete già dei progetti insieme? No, in realtà ci diciamo sempre che siamo a disposizione l'uno per l'altro per qualsiasi cosa musicale o non musicale, ma per adesso è questo quello che, cioè questa canzone e questo tour è tutto quello che sappiamo, ecco, che ci vede coinvolti insieme. Emma, io ti ringrazio e chiaramente ti auguro tanta fortuna anche a Generic Animal per le date di questo tour e anche in generale per tutta la vostra carriera artistica. Grazie mille per la chiacchierata. Grazie mille a te.